Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti gli ascoltatori di VG Musicast. Io sono sempre Sid e benvenuti al terzo episodio di VG Musicast che, come credo avrete potuto notare dal titolo, tratterà soprattutto delle musiche della saga di Metal Gear. L'avevo, mi pare, anche anticipato, se non sbaglio, in uno dei primi, se non al primo episodio. Probabilmente l'episodio successivo sarà un episodio normale di VG Musicast. Premetto già da ora un paio di cose. La prima è che ho deciso di non prendere in considerazione nella trattazione dell'episodio alcuni titoli di Metal Gear come Metal Gear Acid, sia l'uno che il due, che sono, diciamo, due titoli completamente staccati dal mondo principale di Metal Gear, sono due mondi diversi, e anche non farò menzione di Metal Gear Solid Revengeance, che per quanto invece sia parte della storia, della cronologia di Metal Gear, comunque con la saga principale, almeno per quanto mi riguarda, ha davvero poco a che fare, anche perché non è un gioco stealth, è un gioco quasi completamente diverso. Quindi, detto questo, la musica di introduzione dell'episodio che avete appena finito di ascoltare era in realtà un medley, una sorta di remix di tutti quei tunes, tutte quelle musichette che si sentono nel primissimo Metal Gear, e non sto parlando di Metal Gear Solid, ma sto parlando proprio di Metal Gear per MSX 2. E infatti iniziamo proprio da questo gioco. Ah, un'ultimissima cosa, ovviamente parlerò di ogni gioco della saga, ma in modo molto sommario, diciamo facendo anche dei riferimenti molto, molto brevi, anche perché parlare di un qualsiasi gioco di Metal Gear in modo approfondito, per farlo servirebbero delle ore, quindi verrebbe fuori un episodio di 20 ore, mentre questo podcast è appunto incentrato sulla musica dei videogiochi, e di musica ne ascolteremo. Quindi il primo capitolo della saga, il vero e proprio primo capitolo, si chiama semplicemente Metal Gear, esce nel 1987 in Giappone, prodotto da Konami per computer MSX 2. Esiste anche un porting per NES che però ha avuto meno successo e vedeva una versione del gioco molto diversa da quella originale. È chiaramente un gioco in 2D ed è considerato da molti essere il precursore dei giochi stealth. In più, a partire proprio da questo primo gioco fino alla fine, come vedremo, la mente, il creatore che sarà dietro ogni Metal Gear, ovviamente sarà il famosissimo Hideo Kojima. In Metal Gear noi prendiamo le parti di una spia di nome Solid Snake, facente parte di un gruppo di forze speciali chiamato Foxhound, e capitanato da un soldato leggendario di nome Big Boss. Snake avrà il compito di infiltrarsi nella base di uno stato fasullo chiamato Outer Heaven per distruggere un'arma di distruzione di massa che viene sempre rappresentata come una sorta di carro armato bipede o di nome Metal Gear, appunto. Già dal primissimo capitolo figurano dunque riferimenti alle armi nucleari, alla paura di un conflitto mondiale devastante, temi che compariranno spesso in tutti gli altri giochi della saga e che rappresentano assolutamente una costante nel mondo di Metal Gear. Il giocatore si troverà ad affrontare vari tipi di situazioni in cui dovremo attraversare delle zone senza farci scoprire dal nemico, evitare delle telecamere a raggi laser, salvare qualche personaggio all'interno della base, eccetera. Il tutto è correlato alla presenza dei boss, che costituiscono da sempre l'elemento, diciamo, più action della serie. Il gioco in sé non dura molto, ma se si è alle prime armi e non si sa dove andare, cosa fare, il livello di difficoltà aumenta e anche il tempo che si impiega per concluderlo. Il gioco è stato in gran parte ispirato dal film del 1963 La Grande Fuga e ad altri film di guerra e spionaggio, dei quali appunto Hideo Kojima è un grandissimo appassionato. Questo primo Metal Gear ebbe un discreto successo, ma gli viene soprattutto riconosciuto il merito di aver introdotto delle meccaniche di gioco nuove e praticamente mai viste prima, corredate da una storia e da una narrazione avvincente. 3 anni dopo, nel 1990, esce il seguito dal titolo Metal Gear 2 Solid Snake, sempre prodotto da Konami e sempre per MSX2. Il gioco continua la storia del primo capitolo e molti elementi di questa sono simili, se non praticamente uguali, a quelli del gioco precedente. Infatti Solid Snake dovrà nuovamente infiltrarsi nella base del nemico, che in questo caso si chiama Zanzibar Land, la base, non il nemico, e distruggere il successore di... il successore del Metal Gear è di nuovo anche il boss finale, che non voglio dire per non fare spoiler, mi stava uscendo uno spoiler là, vabbè. Questo capitolo prende e migliora vari aspetti del primo e aggiunge anche elementi nuovi. Infatti i nemici non hanno più la visuale verticale e orizzontale, ma da questo punto in poi nella serie possiedono una visuale più ampia, a 45 gradi sostanzialmente del campo davanti a loro, rendendo più realistiche le loro reazioni e permettendogli di vedere anche in diagonale. In più è il primo capitolo della saga in cui figura il contatore di allerta del nemico, no? Che si attiva ogni volta che veniamo avvistati e che ovviamente sarà una costante nel corso della saga. Anche il numero di gadget e armi viene amplificato e vengono introdotti degli elementi di puzzle, mentre il codec, sarebbe questa radio che Snake utilizza per parlare diciamo ai suoi superiori e farsi consigliare, quindi uno strumento di supporto, in questo caso inizia a acquistare sempre più importanza, anche e soprattutto per la narrazione della storia. Questo secondo Metal Gear è da molti considerato essere uno dei migliori giochi ad 8 bit di sempre ed è sicuramente un cult tra gli amanti del genere, anche se entrambi i giochi per MSX2 non vengono generalmente visti come il vero e proprio punto di svolta della serie, che arriverà a farsi conoscere al grande pubblico a partire dal capitolo successivo della saga. Ed è infatti con Metal Gear Solid, gioco del 1998 per PlayStation 1, sempre prodotto da Konami e diretto da Hideo Kojima, che la saga acquista un'enorme notorietà ed entra ufficialmente a far parte dell'Olimpo dei giochi migliori di sempre, oltre ad essere un vero e proprio punto di riferimento del genere stealth. Tutte le caratteristiche dei primi due capitoli vengono riprese, amplificate, e molti aspetti vengono sicuramente migliorati, uno tra tutti il doppiaggio, che per un gioco di quei tempi era fenomenale e ancora oggi non sfigura di certo. La storia è in realtà molto simile per certi aspetti a quella che abbiamo visto prima, ovvero vestiamo sempre i panni di Solid Snake, il quale avrà il compito di infiltrarsi nella base dei nemici e salvare il presidente della DARPA e della Armstech per ottenere i codici per distruggere la nuova versione appunto del Metal Gear e fermare questi misteriosi terroristi. Come avrete forse notato, non mi sto soffermando troppo sulla storia, sia perché non voglio assolutamente fare spoiler per chi non ci abbia mai giocato, e sia perché la storia di ogni singolo Metal Gear è così vasta che appunto, come detto prima, servirebbero ore e ore di puntate. Quello che però vorrei fosse chiaro è che ogni Metal Gear ha una storia estremamente avvincente e complessa, e la narrazione della stessa viene riprodotta magistralmente in ogni capitolo. I personaggi vengono sempre caratterizzati molto bene, a partire dal protagonista fino ad arrivare a quelli meno importanti. La transizione al 3D, ovviamente, dà la possibilità di introdurre nuovi aspetti del gioco, come la possibilità di osservare in prima persona dagli occhi di Snake, il che rende tutta la parte di infiltrazione e spionaggio molto più realistica. Ovviamente anche in questo capitolo figurano i combattimenti con i boss, i quali sono tutti molto diversi tra loro e richiedono tattiche e stili nuovi per ogni scontro. Basti prendere ad esempio lo scontro a tratti assurdo con Psycho Mantis, o quello tra cecchini contro Cyberwolf, eccetera, insomma non voglio dilungarmi troppo. Il radar ci dà la possibilità di vedere il campo visivo dei nemici e delle cose che abbiamo intorno a noi, mentre il ruolo del codec appunto non è solo di supporto, ma rappresenta anche un elemento importante per la narrazione della storia. Il gioco, come detto, ha avuto un grande successo ed è ad oggi considerato essere uno dei migliori giochi per PlayStation, se non il migliore per quella piattaforma, e ovviamente anche uno dei giochi migliori di sempre in generale. Ai tempi ricevette delle votazioni pressoché tendenti alla perfezione, ancora oggi tiene un Metascore di 94 su 100, ad esempio, che è uno dei più alti di sempre. È inutile dire che ovviamente consiglio a tutti coloro che non l'abbiano fatto di giocare a questo capitolo assolutamente importantissimo della storia dei videogiochi. Le musiche furono composte dal team interno di musicisti di Konami, fatta eccezione per il tema principale del gioco, entrato poi nella storia, nell'Olimpo della musica dei videogiochi prodotto da Tappi Iwase. È proprio il tema principale di Metal Gear Solid 1, quello che andiamo ad ascoltare, che si chiama Theme of Metal Gear Solid. We'll be right back. Siamo nel 2001 e siamo su una nuova console, ovvero la PlayStation 2, ed è proprio in questo anno che esce uno dei primi titoli per PS2 ed il seguito anche del primo Metal Gear Solid, ovvero Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. In questo capitolo alcune cose relativamente alla struttura del gioco iniziano un po' a cambiare, molte altre invece rimangono uguali, anche se in questo caso ci ritroveremo nei panni di un personaggio principale diverso da Solid Snake, il quale personaggio appunto si chiama Raiden, il quale fu oggetto delle critiche di molti fan della saga che chiedevano a gran voce di tornare a giocare come Snake. Critiche che io personalmente ho sempre trovato inutili, dato che il gioco in sé regala dei momenti assolutamente dimenticabili e porta una sorta di aria nuova nella saga che in un punto, diciamo, si ritrovava in un punto in cui si rischiava di avere un more of the same che forse ne avrebbe sminuito la grandezza. Come detto, rivestiamo i panni di Raiden, una spia con un passato misterioso alle spalle che avrà il compito di salvare il presidente degli Stati Uniti da una piattaforma di smaltimento sita nel mezzo del mare chiamata Big Shell, è occupata da un gruppo di terroristi soprannominati appunto Sons of Liberty, i quali chiedono un riscatto per la vita del presidente e che minacciano di scatenare nuovamente un conflitto nucleare. È la prima volta nella saga in cui si fa esplicito riferimento ai cosiddetti Patriots, i quali hanno un ruolo fondamentale nella storia della saga intera e le quali intenzioni non sono sempre molto chiare. Questo secondo capitolo è infatti molto incentrato sulle tematiche di cospirazione politica, democrazia, tanto che il gioco intero è permeato da una sorta di filosofia di fondo che rende la storia ancora più profonda e magari anche più criptica del solito. Ovviamente anche in questo caso avremo a che fare con una tipologia di Metal Gear che non approfondisco oltre per appunto non fare spoiler. Anche in questo caso molti elementi del primo Metal Gear Solid vengono riproposti con l'introduzione di altre piccole meccaniche di gioco, mentre devo dire che gli incontri coi boss non brillano in modo particolare, risultano un po' obsoleti, soprattutto per quanto riguarda il combattimento finale. Mentre tutto il resto, per quanto riguarda le musiche, la grafica, la storia eccetera, è reso in modo magistrale. Il gioco contribuì in larga parte al successo iniziale di PlayStation 2 e fu uno dei giochi più venduti per quella console, arrivando a vendere più di 7 milioni di copie. Venne accolto dalla critica come un altro grande capolavoro, con voti anche in questo caso quasi tutti perfetti e con un Metascore di ben 96 su 100. Le musiche vennero composte da Harry Gregson Williams, composer della scuola di Hans Zimmer, che grazie al suo lavoro assolutamente magistrale per questo capitolo divenne un'icona nel mondo delle musiche dei videogiochi, anche se il tema principale, quello che abbiamo appena ascoltato, continua a rimanere quello di Tappi Iwase. Noi da Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty andiamo ad ascoltarci Fortune. Siamo a fine 2004 e sempre per PlayStation 2 esce un nuovo bellissimo seguito della saga, ovvero Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Per alcuni rappresenta una sorta di ritorno alle origini, dopo la parentesi sperimentale, tra virgolette, di Sons of Liberty, anche se questo capitolo si distingue soprattutto per il setting e per delle nuove meccaniche di gioco, come l'introduzione della barra della stamina, la quale può essere riempita solo mangiando di tanto in tanto gli animali che cattureremo. Infatti Metal Gear Solid 3 Snake Eater è largamente ambientato in location naturali come foreste, paludi, radure, montagne, grotte, eccetera, e dunque non in setting prettamente urbani come già visto nei precedenti capitoli. Ciò contribuisce a creare anche una componente di survival, la quale, come detto prima, comprende anche il catturare gli animali per mangiarli. Ma Snake Eater è anche e soprattutto un gioco stealth e per la prima volta nella saga avremo la possibilità di cambiare il colore della nostra uniforme per mischiarci sempre di più con l'ambiente circostante e rimanere invisibili agli occhi dei nemici. I combattimenti con i boss sono, per quanto mi riguarda, tra i migliori della serie, con alcuni di questi che entrano di diritto nella storia dei videogiochi, come ad esempio quello contro The End, per dire. Ma nonostante quel 3 nel nome, in realtà la storia di Snake Eater è ambientata prima di tutti gli altri capitoli della saga usciti fino a quel punto e dunque funge come un'importantissima funzione di prequel che ci permetterà anche di capire meglio molti aspetti della storia, cruciali soprattutto per capire le origini di Solid Snake e altri personaggi. Il personaggio principale è appunto una spia di nome Naked Snake, il quale assomiglia molto al Solid Snake degli altri capitoli, ma che sappiamo per certo non essere lui, dato ovviamente il periodo di tempo in cui si svolge il gioco. Ovviamente per capire il perché di tutto questo non vi resta che giocare e finire il gioco. Il compito di Snake sarà dunque, come al solito, cercare di prevenire un conflitto nucleare tra, questa volta tra Russia sovietica e Stati Uniti, fermando un'elite di supersoldati di nome Cobra e il colonnello Volgin, oltre che a cercare di distruggere lo Shagohod, ovvero una sorta di precursore del Metal Gear degli scorsi episodi. Il gioco, come tradizione per i Metal Gear, è considerato essere uno dei migliori giochi, e non solo per PS2, ma di sempre, e ancora oggi c'è chi lo considera il migliore della saga. Le musiche vennero composte da Harry Gregson-Williams e Norihiko Ibino, e il tema principale dal titolo Snake Eater è semplicemente epico, e anche a costo di ripetermi devo dire che entra di diritto nell'arca delle musiche dei videogiochi più belle di sempre. E noi andiamo ad ascoltarci proprio questa. Da Metal Gear Solid 3 Snake Eater, questa è Snake Eater. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Deviando per qualche secondo dalla saga principale, parliamo del primo capitolo di Metal Gear Solid per PSP, intitolato Metal Gear Solid Portable Ops, uscito nel 2006, parte direttamente dalla fine di Metal Gear Solid 3 ed espande a sua volta la storia dell'universo della saga. È un capitolo dove si ritorna sostanzialmente allo stile originale del primo Metal Gear Solid, con l'introduzione della possibilità questa volta di creare un team, il cosiddetto Comrade System, in base al quale Snake dovrà reclutare dei soldati sul campo per farli entrare nella propria squadra e sostanzialmente gestirli e utilizzarli in base alle loro capacità. Questa sorta di elemento manageriale poi ricorrerà anche in altri capitoli successivi, verrà espanso per avere poi un ruolo centrale nel quinto capitolo. La storia in sé è abbastanza simile a quella degli altri giochi della saga, infatti Snake dovrà cercare di fermare il comandante dell'unità Fox di nome Gene e dovrà nuovamente cercare di distruggere un prototipo di Metal Gear per scongiurare una catastrofe nucleare. Il gioco ha ricevuto critiche prettamente positive ed è ritenuto essere uno dei migliori giochi per PSP di sempre. Arriviamo poi al 2008 per accogliere l'unico capitolo della saga su PlayStation 3, diretto sequel del secondo capitolo, ovvero Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Diventa chiaro che adesso la trama della saga segue due filoni temporali distinti, dove uno parte dal primo Metal Gear, mentre il secondo affonda le radici negli eventi del terzo capitolo. Questo Metal Gear Solid 4 è cronologicamente il capitolo finale della saga, poiché anche il quinto, come vedremo, sarà ambientato nel passato. Infatti la storia dei Patriots e di Solid Snake si conclude in questo gioco, strutturato in 5 capitoli ed in 5 diverse location, scelta unica e rara nella serie, che generalmente aveva tutti i suoi eventi ambientati in un solo posto. Le cutscene nella storia acquistano un ruolo centrale nel gioco, forse anche più del gameplay stesso, ed è per questo che molte ore di gioco vengono occupate dalla narrazione, che è impeccabile come non mai in questo caso. Questa volta indosseremo una particolare tuta mimetica, anzi Snake indosserà una tuta mimetica chiamata Octocamo, che si adatta in modo automatico ed incredibilmente accurato ai colori e all'ambiente circostante, in modo da fornirci la migliore protezione mimetica possibile contro i nemici. E in più potremo ad esempio utilizzare da remoto una sorta di robottino di supporto, il Metal Gear MK2, col quale si possono creare diversivi, sperimentare nuove tattiche di gioco, eccetera. Per la prima volta nella serie il giocatore ha la possibilità di modificare e comprare le armi, oltre che ovviamente la possibilità di rubarle dai nemici, grazie all'introduzione del nuovo personaggio di Drabin. Inutile dire che il Solid Snake di questo capitolo è anche la sua versione più anziana ed è sostanzialmente prossimo alla morte, infatti quest'aura di morte, di fine, si percepisce un po' per tutto il gioco, e la sua missione sarà fermare nuovamente la sua storica nemesi una volta per tutte, che non voglio nominare in questo momento per non fare spoiler. La particolarità dei boss è che sono tutte donne, o comunque hanno delle fattezze femminili, e che fanno anche esplicito riferimento ai boss del primo Metal Gear Solid, anche se, per quanto mi riguarda, i combattimenti contro di loro sono sicuramente inferiori a quelli del terzo e del primo capitolo, che secondo me hanno i combattimenti più epici con i boss. Il videogioco è stato apprezzato praticamente da tutta la critica videoludica, ottenendo voti praticamente perfetti, come ad esempio un 40 su 40 di Famitsu, o comunque se non perfetti molto alti. Ha venduto più di 6 milioni di copie, divenendo un altro grandissimo successo per la serie. Nonostante ciò, le critiche, soprattutto da parte dei fan storici della serie, furono molte, e c'è chi ancora oggi considera questo quarto capitolo come il peggiore della saga. Infatti molti non apprezzarono la lentezza del gioco in termini di narrazione a causa troppe e lunghe sequenze di spiegazione della trama, che a volte divenivano pesanti e forse anche insopportabili. In più il cambio radicale nell'impostazione di gioco lo ha trasformato più in una sorta di gioco di guerra rispetto, diciamo, alla sua natura stealth, e ciò ha portato molti fan a chiedere a gran voce un capitolo diverso e più in linea con gli standard della serie, capitolo che avranno più avanti e ne parleremo appunto tra poco. A me personalmente è molto piaciuto, ma lo trovo comunque inferiore agli altri capitoli precedenti. In ogni caso, ogni fan di Metal Gear che conosco ha una sua opinione completamente diversa sul gioco, il che lo rende, dal mio punto di vista, probabilmente il capitolo più discusso di tutta la saga. Le musiche vennero affidate nuovamente ad Eric Gregson Williams per la terza volta, che compose la colonna sonora con un altro composer di nome Nobuko Toda, mentre la main theme che abbiamo ascoltato prima, no? La main theme di Metal Gear Solid, venne misteriosamente cacciata ed infatti non compare neanche una volta nel gioco finale. Quindi noi da Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots andiamo ad ascoltarci la bellissima Victory Song. Thank you. E torniamo su PSP con il secondo e ultimo capitolo di Metal Gear portatile, ovvero Metal Gear Solid Peace Walker, uscito nel 2010, sempre prodotto da Konami e Kojima Production. Segue direttamente da dove la storia era finita con Portable Ops ed è ambientato 4 anni dopo i suoi eventi. Riprendiamo a giocare come il Naked Snake del terzo capitolo e ci ritroviamo nel passato, dove Snake comanda una sua squadra di mercenari chiamati Militaires Sans Frontières o MSF, e si ritrova a dover liberare il Costa Rica da una minaccia militare, oltre a dover fare i conti col suo passato e ovviamente con un altro Metal Gear. Come in Portable Ops, anche qui si ha la possibilità di reclutare nuovi soldati e di gestire una base tutta nostra, cioè la Mother Base, grazie alla quale si avranno a disposizione nuove armi e anche nuovi personaggi con cui giocare le missioni. Anche in questo caso la storia è molto profonda ed è raccontata tramite uno stile fumettistico molto bello, più che in computer grafica come al solito, e tutta la storia è accompagnata come sempre da dei doppiatori molto bravi. Ovviamente, come da tradizione, anche questa volta il gioco venne osannato dalla critica, ottenendo ad esempio un 40 su 40 perfetto di Famitsu e voti praticamente perfetti in tutto il mondo. Questo capitolo è anche nella cronologia ufficiale del gioco il penultimo capitolo prima del quinto, temporalmente diciamo, il quale però uscirà ben 5 anni dopo. Infatti, con il prequel Ground Zeroes nel 2014 e poi con il gioco vero e proprio, ovvero Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, nel 2015 arriviamo al capitolo finale della serie, che conclude in modo anche un po' criptico, devo dire, la saga che vede Naked Snake come protagonista, andando sostanzialmente a tappare i buchi narrativi ancora oscuri della storia di tutta la serie. Il gioco è prodotto da Kojima Productions e pubblicato da Konami per PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox One e Xbox 360 ed è ambientato nel 1984 in una regione dell'Afghanistan in cui il nostro personaggio principale, che in questo caso però si chiamerà Venom Snake, dovrà sconfiggere i responsabili della distruzione della sua organizzazione, ovvero la sopracitata Militaires Sans Frontières, incontrando ovviamente nuovi e vecchi personaggi della serie. Per la prima e unica volta avremo a disposizione un mondo totalmente aperto ed esplorabile. Vengono introdotte delle missioni secondarie, oltre alla possibilità di costruire nuovamente la nostra Mother Base, reclutando soldati nemici. In più, nel gioco è stato implementato un ciclo giornaliero realistico, in base al quale potremo vivere le varie missioni in modo diverso e totalmente originale, a seconda anche delle condizioni meteorologiche, ad esempio. Questo quinto capitolo rappresenta il mondo di gioco più esteso mai visto in un Metal Gear e dona al giocatore la possibilità di avere piena libertà di scelta e di esplorazione. Inutile sottolineare che il gioco ha una realizzazione tecnica e grafica senza precedenti e che anche i più critici in questo caso faticano a trovare dei difetti in qualche aspetto. È stato infatti da alcuni definito il gioco addirittura perfetto ed è visto come la degna conclusione della storica saga appunto di Metal Gear, dato che pare proprio che Kojima non abbia intenzione, almeno per ora, di continuarla. Nel dicembre 2015 il gioco aveva già venduto oltre 6 milioni di copie, che ad oggi saranno sicuramente aumentate, determinando il successo anche finanziario del gioco, e da molti è stato scelto anche come gioco dell'anno 2015. Io personalmente non avevo mai visto un'acclamazione così positiva ed entusiasta per un videogioco in tutto il mondo, sostanzialmente. Le musiche vengono affidate nuovamente ad Harry Gregson-Williams per la quarta volta e ciò ha valso al gioco il premio per migliore soundtrack ai The Game Awards del 2015. È un gioco che va sicuramente provato e giocato fino in fondo, come credo tutta la serie di Metal Gear, ve lo dice ovviamente un super fan della serie. Quindi quello che mi rimane da dire in realtà, oltre a ascoltare l'ultima canzone proveniente proprio da Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, è che in realtà siamo arrivati alla fine di questo speciale di VG Musicast. Prima di lasciarvi vi ricordo molto velocemente i contatti: vgmusicast@gmail.com è la mail per comunicare con me, mandarmi suggerimenti, critiche, tutto quello che volete. Se volete siamo su iTunes, basta cercare VG Musicast, oppure c'è il blog di riferimento che è vgmusicast.blogspot.com. Come ho detto all'inizio, ci tengo a sottolineare che questa è stata una puntata incentrata più sulla musica della saga di Metal Gear, perché essendo un super fan so anch'io benissimo quanto sia lungo, possa essere lungo parlare della storia e di ogni singolo Metal Gear. Lo vorrei davvero fare, ma ne uscirebbe una puntata lunghissima. Perciò quello che spero di aver fatto è prima cosa di tutto non avervi annoiato, ovviamente, e poi mi rivolgo soprattutto a coloro che non hanno mai giocato un Metal Gear. Spero di avervi quantomeno invogliato a provarlo, a provare un qualsiasi gioco di Metal Gear, tanto avete sentito che sono tutti ottimi. Io, se posso darvi un consiglio, vi consiglierei di provare o il primo o il terzo Metal Gear Solid, che sono tra l'altro anche i miei preferiti. Detto questo, non mi rimane davvero nient'altro da dirvi. Vi lascio alla canzone che è un medley tra Quiet Theme e Sins of the Father, cioè due soundtrack provenienti da Metal Gear Solid 5. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, che dovrebbe essere una puntata normale, credo, come le prime due. Fatemi sapere se vi è piaciuta la puntata o no, datemi qualche feedback, perché è sempre ben accetto, sia positivo che negativo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Questo è Quiet Theme e Sins of the Father. Ciao a tutti.